Ecco, proprio in questa trasmissione, cari amici, come pellegrino, faccio un po' il vostro inviato speciale, se mi permettete, da un luogo che la Madonna ha benedetto in modo particolare. Stiamo parlando di Fatima. È una storia che molti di noi già conoscono, una storia meravigliosa che però ha cambiato il cuore di tanti uomini e che ha inizio nella primavera del 1916, quando Lucia e i cuginetti Francesco e Giacinta Marto, di 8 e 6 anni, sono al pascolo sulla collina del Cabeco, siamo in Portogallo naturalmente. Quel giorno i tre bambini videro in lontananza un giovane, come se fosse di luce, che si avvicinava e quando giunse vicino disse loro: «Non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me». E inginocchiatosi piegò la fronte fino a terra e recitò per 3 volte questa preghiera: «Dio mio, io credo, adoro, spero e vi amo. Io vi domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano». Poi disse loro: «Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria ascoltano la voce delle vostre suppliche». E poi scomparve. Francesco vide l'apparizione quella volta, ma non udì le parole che gli saranno poi riferite da Lucia e da Giacinta. Sempre in quell'anno, siamo nel 1916, in estate, sul pozzo della casa di Lucia, nel cortile, mentre i tre bambini giocavano allegramente, appare ancora l'angelo e dice queste parole: «Pregate, pregate molto. I santi cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi dei progetti di misericordia. Offrite senza cessare preghiere e sacrifici all'Altissimo. In tutto ciò in cui vi è possibile, offrite a Dio un sacrificio in atto di riparazione per i peccati da cui è offeso e in atto di supplica per la conversione dei peccatori. In questo modo voi attirerete la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi invierà». E questa è la seconda apparizione di quel 1916. La terza, sempre quell'anno, arriva nell'autunno dello stesso anno, ancora questa volta sulla collina del Cabeco, mentre Lucia, Francesco e Giacinta stanno ripetendo la preghiera è insegnata proprio dall'angelo ed ecco che appare ancora una volta tenendo nella mano sinistra un calice. Sopra questo calice è sospeso un'ostia da cui cadono alcune gocce di sangue e vanno dentro il calice. L'angelo lascia il calice e l'ostia sospesi nell'aria e prostrato poi fino a terra a fianco dei tre bambini ripete, imitato da loro, 3 volte una nuova preghiera che è bellissima e fa così: «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze da cui egli medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori». Poi prese nuovamente il calice e l'ostia e dà l'ostia a Lucia, mentre il sangue del calice lo dà a Francesco e a Giacinta e aggiunge: «Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio». Poi, alla fine, si prostrò di nuovo e ripeté ancora 3 volte la preghiera alla Santissima Trinità, quindi scomparve. E arriviamo così, cari amici, al 13 maggio invece 1917 a Cova d'Airia. In quel giorno i tre bambini, Lucia che ha 10 anni e i suoi cugini Francesco e Giacinta di 9 e 7 anni, stavano giocando mentre accudivano un piccolo gregge in un terreno di proprietà del padre di Lucia. Verso mezzogiorno, dopo aver recitato come d'abitudine il rosario, videro due fenomeni luminosi come due lampi e poi una misteriosa signora splendente con un rosario in mano. Ebbene, questa, come sappiamo, fu la prima delle 6 apparizioni che i tre piccoli pastorelli avranno fino ad ottobre, sempre il giorno 13, tranne purtroppo nel mese di agosto, quando dal 13 al 15 di questo mese vengono, possiamo dire, sequestrati dal sindaco massone anticlericale, che cerca di smascherare quella che lui crede essere un'impostura. Infatti la Madonna apparirà nel mese di agosto ai Tre Pastorelli il 19 di agosto. Ma qui dobbiamo anche dire che in questi mesi questi bambini sono stati sottoposti a ogni tipo di vessazione. Li hanno messi in prigione per impaurirli. Gli hanno addirittura detto che li avrebbero gettati nell'olio bollente, eppure non si sono mossi di un passo da quello che era la verità che loro avevano visto. C'era, diciamo, anche un governo anticlericale al massimo allora in Portogallo, quindi anche le autorità volevano mettere a tacere tutto questo. Devo dire che in parte ci ricorda anche un po' quello che è successo a Medjugorje allora anche ai ragazzi, ai bambini di Medjugorje, no? Quando c'erano ancora le autorità comuniste sotto Tito. Comunque, ritornando a Fatima, diciamo subito che 13 anni dopo questa apparizione, quindi siamo al 13 ottobre 1930, il vescovo di Leiria dichiara degne di fede le visioni, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Ma iniziamo proprio dal principio, nelle sue semplici memorie, Lucia racconta così quello che accade il 13 maggio 1917, che era la prima apparizione della Madonna. Scrive così Lucia: «Vedemmo all'improvviso qualcosa come un lampo. È meglio che ce ne andiamo a casa, disse ai miei cugini, perché sta lampeggiando, potrebbe venire un temporale. E cominciammo a scendere il pendio, spingendo le pecore verso la strada. Arrivati all'incirca a metà pendio, quasi vicino a un grande leccio, quindi una specie di quercia che c'era lì, vedemmo un altro lampo. E fatti alcuni passi più avanti, vedemmo sopra un elce una signora. Era vestita di bianco e diffondeva una luce più chiara del sole. Sorpresi ci fermammo. Eravamo così vicini, dice Lucia, che ci trovavamo dentro alla luce che la circondava o che lei diffondeva, forse a un metro e mezzo, più o meno di distanza. Allora quella signora ci disse: non abbiate paura, io non voglio farvi del male. Di dove siete? Le domandai. Sono del cielo. E cosa volete? Sono venuta a chiedervi che veniate qui 6 mesi di fila, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Tornerò qui ancora una settima volta. Infatti la settima volta, come vedremo, la vedrà Lucia il 15 giugno del 1921. E lei chiede: anch'io andrò in cielo? Sì, ci andrai. E Giacinta? Sì, ci andrà anche lei. E Francesco? Pure. Poi ci disse di recitare il rosario tutti i giorni e che avremmo avuto molto da soffrire, ma che la grazia di Dio sarebbe stata il nostro conforto. E passiamo ora al segno. Dicevamo che erano stati, minacciati, impauriti, almeno pensavano di impaurirle le stesse autorità, rimproverati anche degli stessi genitori che in parte non credevano. Allora cosa dice Lucia? Lucia chiede alla Madonna un segno perché tutti possano credere. E la Madonna diede questo segno affinché tutti credessero, e questo segno, come noi già sappiamo, fu il miracolo del sole. Cosa successe? Ci fu ad ottobre, praticamente nella sesta ed ultima apparizione ai Tre Pastorelli. Siamo al 13 ottobre del 1917, è una giornata epica questa, perché quel giorno, proprio in virtù di questo miracolo che ci sarebbe dovuto essere, arrivarono le cronache ci dicono erano tra le 40.000 e le 100.000 persone, e fra loro chiaramente anche tanti giornalisti, studiosi, scienziati, volevano capire un attimino, insomma, molti erano lì per curiosità, altri per deridere questi bambini. Oltretutto, pensate che allora in Portogallo, inoltre, erano addirittura vietate le assemblee religiose, quindi questa era anche, diciamo, era contro la legge, era illegale questo tipo di assembramento. Eppure i bambini fino in fondo vollero andarono insieme ai loro genitori alla fine, e questo segno arrivò. Praticamente quel giorno, dopo una pioggia terribile, battente, che rese fradici il terreno e gli abiti di tutti quelli che erano presenti, in un secondo, dopo la pioggia cessò in un attimo e si aprì, e il sole venne visto cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti, un sole che fu possibile fissare direttamente con lo sguardo. dicevamo appunto che smise praticamente immediatamente di piovere in un secondo, dopo aver piovuto per parecchie decine di minuti, e praticamente in un attimo sia gli abiti dei presenti che il terreno si mostrarono improvvisamente asciutti. Ma a questo proposito vi desidero darvi una testimonianza di uno scienziato, di un professore della Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Coimbra, era il dottor José María Proenca de Almeida Garrett. Era una persona retta, cioè non era prevenuto, ma voleva andare lì per capire esattamente quello che stava succedendo, una persona molto concreta che credeva poco ai segni. E andò lì e questo professore, come fecero anche tanti altri studiosi, rilasciò lui questa intervista 4 giorni dopo, quindi era il 17 ottobre del 1917, al giornale, al quotidiano di Lisbona, O Dia, cioè Il Giorno, e questo professore dice così: improvvisamente udì il clamore di centinaia di voci e vidi che la folla si sparpagliava ai miei piedi, voltava la schiena al luogo dove, fino a quel momento, si era concentrata la sua attesa e guardava verso il sole dall'altro lato. Anch'io mi sono rivolto verso il punto che richiamava lo sguardo di tutti e potei vedere il sole apparire come un disco chiarissimo con i contorni nitidi che splendeva senza offendere la vista. Non poteva essere confuso con il sole visto attraverso una nebbia che non c'era in quel momento, perché non era né velato né attenuato. A Fatima, dice questo professore, esso manteneva la sua luce e il suo calore, si stagliava nel cielo con i suoi nitidi contorni come un largo tavolo da gioco. La cosa più stupefacente era il poter contemplare il disco solare per lungo tempo, brillante di luce e di calore, senza ferirsi gli occhi o danneggiare la retina. Durante questo tempo il disco del sole non rimase immobile, aveva un movimento vertiginoso, ma non come lo scintillio di una stella in tutto il suo splendore, perché esso girava su se stesso in folli giravolte. Durante il fenomeno solare che ho appena descritto, avvenne anche un cambiamento di colore nell'atmosfera. Guardando verso il sole, ho notato che tutto stava diventando più scuro. Ho guardato prima gli oggetti più vicini e poi ho esteso il mio sguardo ai campi fino all'orizzonte. Vedi ogni cosa assumere il colore dell'ametista, cioè azzurro. Gli oggetti intorno a me, il cielo e l'atmosfera, erano dello stesso colore. Ogni cosa, sia vicina che lontana, poi era cambiata, assumendo il colore di un vecchio damasco giallo. Poi improvvisamente si udì un clamore, un grido di angoscia prorompere da tutti. Il sole, roteando selvaggiamente, sembrò staccarsi all'improvviso dal firmamento e, rosso come sangue, avanzare minacciosamente verso la terra come per schiacciarci con il suo peso immenso e ardente. Durante quei momenti provai una sensazione veramente terribile, dice questo professore, e tutti i fenomeni che ho descritto furono da me osservati in uno stato d'animo comunque calmo e sereno, senza alcun disturbo emotivo. Interpretarli, dice, spiegarli è compito di altri. Devo però dichiarare che mai, prima o dopo il 13 ottobre 1917, ho assistito a simili fenomeni atmosferici o solari. Ma oltre a questo miracolo del sole, che molti di noi già ne sono a conoscenza, le cronache ne hanno parlato lungamente, la Madonna fece partecipare i 3 bambini anche di alcuni messaggi, e tra questi quello principale legato, come sappiamo, ai 3 segreti, o meglio una rivelazione in 3 parti che la Vergine fece ai pastorelli nell'apparizione del 13 luglio. Lucia, poi diventata suora, scrisse le prime 2 parti nelle sue memorie. La terza, scritta il 3 gennaio 1944, la diede in una busta sigillata al vescovo di Leiria, busta che fu poi consegnata nel 1957, quindi molti anni dopo, all'archivio segreto del Santo Uffizio, e cui contenuto è stato poi divulgato, come sappiamo, nell'anno 2000, durante il pontificato di San Giovanni Paolo II. Ma partiamo dalla prima parte, che è la visione dell'inferno, dove il cielo, devo dire, ci richiama ai novissimi che purtroppo dimentichiamo molto spesso. E proprio nella prima parte del segreto, Suor Lucia racconta che la Madonna mostrò a tutti e tre i pastorelli, leggo quello che lei ha scritto, un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e neri o bronze, con forma umana che fluttuavano nell'incendio. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento, e grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in cielo, altrimenti credo, dice Lucia, che saremmo morti di spavento e di terrore. Ma io vorrei fare, non voglio mettere assieme le cose, ma vorrei fare un parallelo anche con quello che hanno detto i veggenti di Medjugorje, in modo particolare prendo Maria Pavlovic, proprio riguardo all'inferno che la Madonna gli ha fatto vedere, loro hanno visto anche il purgatorio e il paradiso, ma parlo 2 secondi dell'inferno per vedere anche questo parallelo. Dice Maria: abbiamo visto l'inferno come un grande spazio dove al centro c'è un grande fuoco e tante persone, in modo speciale una ragazza giovane che presa da quel fuoco ne è uscita che somigliava ad una bestia. Dopo, dice Maria, la Madonna ha detto che Dio ha dato a tutti noi la libertà e che ognuno di noi risponde con questa libertà. Loro hanno risposto per tutta la vita col peccato, hanno vissuto nel peccato. Con la loro libertà hanno scelto l'inferno. La Madonna invece ha detto a Miriana, l'altra veggente di Medjugorje, questa cosa. Alla domanda del perché, lei ha risposto: coloro che vanno all'inferno non vogliono più ricevere alcun beneficio da Dio, non si pentono, non fanno che imprecare e bestemmiare, vogliono restare nell'inferno e non pensano di lasciarlo. Questo non è per spaventarci, ma è per farci capire che c'è un'eternità e che dobbiamo, diciamo, far nostre l'invito che il Signore ci fa in questi anni, in modo particolare tramite la Madonna, ma questo è già da Fatima che ce lo dice, questa cosa qui, quindi dal 1917, se non addirittura nei secoli precedenti. Ci tocca il cuore questa cosa, sinceramente ci tocca il cuore, però dobbiamo anche renderci conto di fondo che la Madonna non ha avuto scrupolo a coinvolgere dei bambini in questa visione, quindi, e se l'ha fatto, avrà avuto i suoi motivi, come l'ha avuto per esempio anche a Medjugorje. Quindi non dobbiamo avere timore di parlare di queste cose, sono i novissimi. Ma tornando a Fatima, proprio a questa visione, parlo quindi dei tre pastorelli, vorrei dirvi quello che, e ce la chiarisce anche un po' meglio, quello che dice il mariologo padre Gian Matteo Roggio, che è un missionario di Nostra Signora della Salette, ma è anche docente di apparizioni e santuari nella Pontificia Facoltà Marianum, e lui ci chiarisce il significato delle visioni sull'inferno e le sofferenze che la Madonna ha affidato ai tre pastorelli, e dice padre Roggio: le manifestazioni mariane sono un fenomeno ricorrente nella storia della Chiesa, si tratta infatti di eventi in cui la Madre del Signore visita determinate terre e i loro rappresentanti scelti dalla provvidenza perché vedano Maria e ascoltino quanto ella ha da dire con le parole, con il silenzio e con eventuali segni, tipo il miracolo del sole a Fatima. E questi veggenti dovranno poi avere la pazienza, la forza, di annunciare agli altri quello che essi hanno sperimentato, anche se tutto ciò procurerà loro difficoltà e sofferenze. Simili visite e incontri, dice padre Roggio, pur avendo Maria per protagonista, non hanno però la Madre di Gesù come loro centro, cioè la Madonna non viene per annunciare se stessa, e questo dispiace anche quando la si vuole mettere in un angolo, quasi perché fa ombra a Gesù, non è affatto così ovviamente, la Madonna viene per annunciare Gesù. Ella, dice il padre Roggio, non viene per annunciare se stessa, bensì per annunciare quello che la Trinità le chiede di far conoscere a determinate persone o comunità. Le manifestazioni mariane nascono dunque dalla preoccupazione di Dio per la vita e il futuro dei suoi figli. Ecco, dice ancora Padre Roggio, in molti casi, come a Fatima, la Madonna rende pubblicamente conoscibile e comprensibile il futuro, tipo le aveva preannunciato già la fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, se non si fosse dato ascolto alle sue parole. Dice comprensibile il futuro che potrebbe riguardare alcune comunità cristiane e il territorio che essi abitano. Riguardava l'Europa allora. Senza tale rivelazione particolare, questo futuro, dice Padre Roggio, non è benedetto, bensì maledetto, nel senso che è all'insegna della morte e della sofferenza e non della vita. Quindi la Madonna viene qui per aiutarci. La conoscenza del futuro offerta dalla profezia ha quindi lo scopo di rendere chiaro nel presente una malvagità che si camuffa presentandosi come bontà e giustizia. Stanare questo male, i gruppi di potere anche, obbligandolo a mostrarsi per quel che è veramente, risulta necessario affinché il futuro maledetto non accada, dice, anzi possa essere modificato in futuro di benedizione. In sostanza, la profezia non rende nota l'immutabilità del futuro, cioè si può cambiare il futuro, ma illumina il presente per costruire un futuro nuovo e diverso che corrisponda alla preoccupazione di Dio. La preoccupazione di Dio è proprio la vita e il futuro dei suoi figli, come dicevamo. E lui continua, la visione dell'inferno invece riassume tutta la sofferenza, la maledizione e la morte che attende il futuro temporale dell'Europa e il futuro eterno degli europei, cioè la guerra che c'è stata, frutto non del fato o della sfortuna, ma di scelte malvagie operanti qui e adesso, nel presente del continente e dei suoi abitanti. Allora nel 1917, dice, ma poi anche negli anni seguenti. E proprio la devozione al cuore negli anni seguenti, ricordiamo, vorrei ricordare che poco dopo questa apparizione c'è stata la rivoluzione bolscevica, quindi con la formazione dell'URSS e con tutto quello che poi ne è conseguito. La devozione al cuore immacolato di Maria e la consacrazione della Russia vengono quindi, dice Padre Roggio, offerte come le prime due vie per stanare la malvagità e il male che presiedono alle scelte dei singoli e dei gruppi, quindi dicevamo i gruppi che erano al potere, tra cui anche il nazismo, obbligandoli a venire allo scoperto per quello che sono realmente, vale a dire sono la distruzione sistematica di tutto ciò che è umano e che garantisce una vita umana degna. Infine, il martirio del vescovo vestito di bianco e non solo è la terza via che conduce alla costruzione di una chiesa di martiri, che abbiano la libertà evangelica di sottrarsi ai sistemi atei totalitari, così come di sottrarsi al dormire consumistico della coscienza e dei sentimenti. Purtroppo oggi questa cosa è molto diffusa. Per vivere con coraggio invece, con forza e con pazienza, il comandamento dell'amore del prossimo, soprattutto dell'amore del nemico. Oggi, dopo 100 anni, l'Europa e il mondo intero, attraverso l'opera della Chiesa, si ritrovano di fronte a questa profezia, dice questo padre. Si tratta di un momento favorevole, di un'occasione preziosa per l'Europa e per il mondo. Il futuro annunciato nel 1917 si è in parte compiuto, in parte no. Il male e la malvagità continuano a occultarsi e nascondersi in forme che sono sia simili che differenti rispetto a quelle del 1917. La profezia del segreto attende ancora una risposta e conclude: l'Europa e il mondo devono scegliere se continuare la terza guerra mondiale a pezzi di cui parla Papa Francesco, e in essa, dice, continuano a moltiplicarsi gli inferni temporali ed eterni dove si bestemmia il nome di Dio, oppure se intraprendere le vie del cambiamento che sono la fede del cuore immacolato di Maria e il rifiuto dell'ateismo di comodo. Ecco, dopo aver ascoltato queste parole di padre Matteo Roggio, che ci ha spiegato un po' il significato, a suo parere, della visione sia dell'inferno che le sofferenze dei tre pastorelli, andiamo proprio alla vita di questi tre bambini. E tutti e tre riferirono che la Madonna aveva parlato anche della morte prematura di Francesco, cioè di Francesco di Giacinta, aggiungendo che Lucia sarebbe rimasta a lungo sulla terra, e così in effetti è stato. Francesco infatti contrasse l'influenza spagnola nel dicembre del 1918, E rimase sereno per tutta la durata della malattia, facendo in quel periodo anche la prima comunione. Morì il 4 aprile 1919. Anche Giacinta fu colpita purtroppo dallo stesso virus della spagnola nel dicembre del 1918. Sappiamo che in quegli anni la spagnola fece 50 milioni di morti, una cosa veramente incredibile, anche perché allora non c'era ancora la penicillina che si era creata più tardi. Ma riguardo a Giacinta, la sua malattia fu più lunga e dolorosa di quella di Francesco. Venne anche ricoverata menotilmente all'ospedale di Lisbona, dove morì il 20 febbraio del 1920. Lucia invece entrò tra le suore di Santa Dorotea nel 1925, poi invece nel 1948 entrò tra le Carmelitane del convento di Coimbra, dove sappiamo rimase fino alla morte che avvenne nel 2005. Ma andiamo ora al cuore di quei messaggi. Il primo è proprio il cuore immacolato di Maria, e parla della salvezza. Proprio nella testimonianza di Suor Lucia, siamo all'apparizione del 13 giugno del 1917, la Madonna disse a Lucia: Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare, e ti vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Poi, in una nuova apparizione, il 10 novembre 1925, quindi 8 anni dopo, la Vergine le mostrò il cuore coronato di spine e le chiese di diffondere la devozione dei primi 5 sabati del mese, e disse alla Madonna: a tutti coloro che per 5 mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. Questa è una promessa, cari amici, meravigliosa e unica, molto simile a quella dei primi 9 venerdì del mese che Gesù diede a Santa Margherita Maria Lacock. Sono veramente degli strumenti di misericordia infiniti che il Signore ci dona. E proprio pensate, la festa del cuore immacolato di Maria venne estesa a tutta la Chiesa proprio da Papa Pio XII nel 1944 ed è cade sempre il giorno dopo la festa del Sacro Cuore di Gesù. E nella seconda parte invece del segreto c'è la Russia e il Cuore Immacolato, dove vengono riportate sempre da Lucia, da Suor Lucia, queste parole della Madonna: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, qui parla della prima guerra mondiale naturalmente, ma se non smetteranno di offendere Dio durante il pontificato di Pio XI, allora mi fermo un attimo, perché a Suor Lucia è stato chiesto poi negli anni successivi se effettivamente la Madonna avesse pronunciato la parola Pio XI, se l'avesse indicata. Lei disse: sì, ho proprio ascoltato, ho sentito Pio XI. L'unica cosa è che, essendo una bambina, non sapeva se si trattava di un re o di un papa. La Madonna dice: durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, ecco, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che sta per punire il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e della persecuzione alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace. Infine la Madonna in quell'apparizione disse: quando recitate il Santo Rosario, dite così: o Gesù mio, perdonate le nostre colpe, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della vostra misericordia. Thank you. Ecco, mi fermo un attimo, cari amici, su quello che dice la Madonna quando dice ai tre pastorelli, dice: quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà. Allora, questo segno Suor Lucia l'ha riconosciuto nell'aurora boreale che c'è stata il 25 e il 26 di gennaio del 1938. Allora, è vero che la Seconda Guerra Mondiale è iniziata sotto il pontificato di Pio XII, ma in effetti le ostilità vere sono iniziate a marzo del 1938, sotto il pontificato di Pio XI, quando la Germania ha invaso l'Austria. Da lì partono le ostilità. Quindi è una cosa anche importante da sottolineare questa qua. Ma torniamo poi alla terza parte del segreto, che è così riferita sempre dalle memorie di Suor Lucia, che scrive: dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando, emetteva fiamme che sembravano dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: penitenza, penitenza, penitenza. E vedemmo in una luce immensa che Dio qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salire poi una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, e tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo, dice Lucia, morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nelle quali raccoglievano il sangue dei martiri, e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Ebbene, proprio la visione del Santo Padre, cioè il vescovo vestito di bianco che attraverso una città in rovina, incontrando molti cadaveri alla fine, viene ucciso dai soldati, è l'immagine, cari amici, più impressionante della terza parte del segreto di Fatima, resa nota, come abbiamo detto, per volontà di Giovanni Paolo II nel 2000. E da quel momento il legame tra il Papa, tra Giovanni Paolo II e Fatima, e l'apparizione di 100 anni fa, è risaltata ancora di più, offrendo anche un ulteriore significato a una confidenza della stessa Suor Lucia, che scrive: la Signora non ci ha detto il nome del Papa, però era il Papa che soffriva e faceva soffrire anche noi, soffrivano perché lo vedevano morire. E tutti i 9 pontifici che hanno guidato la Chiesa dal 1917 a oggi si sono, possiamo dire, confrontati con questa straordinaria manifestazione mariana, a partire proprio da Benedetto XV. Pensate che il 5 maggio 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, stabilì di aggiungere alle litanie lauretane l'invocazione Regina della Pace, prega per noi. Ebbene, dopo solo 8 giorni, pensate, in modo inaspettato, il cielo offrì la sua risposta con l'apparizione della Madonna, che preannunciò ai tre pastorelli che il conflitto della Prima Guerra Mondiale sarebbe presto terminato. E proprio riguardo ai papi, alcuni anni dopo, esattamente nel 1930, quando il vescovo di Lieria aveva, diciamo, riconosciuto le apparizioni a Fatima, Papa Pio XI fu il primo a essere informato proprio della richiesta di Gesù e di Maria affinché la Russia venisse consacrato al suo cuore immacolato, al cuore immacolato della Madonna, ma il Papa si mostrò perplesso e non fece nulla. Più attenzione ci fu da parte di Pio XII, che ricordava sempre di essere diventato arcivescovo proprio il giorno della prima apparizione, cioè il 13 maggio 1917, E pensate, la Madonna diede esplicitamente a Lucia l'indicazione di scrivergli una lettera il 2 dicembre 1940 con la sollecitazione rinnovata della consacrazione. Qui nel 1942, il 31 ottobre, Pio XII consacrò i popoli separati per l'errore o per la discordia e il 7 luglio 1952, quindi 10 anni dopo, nominò esplicitamente la Russia, ma solo in una lettera apostolica, quindi in effetti non assolse il compito. A Papa Giovanni XXIII toccò invece il compito di leggere per primo la terza parte del segreto che era giunta in Vaticano il 16 aprile del 1957. Lo fece 2 anni dopo, il 21 agosto del 59, mentre si trovava nella residenza estiva di Castel Gandolfo, condividendone il contenuto con il suo confessore e con altre autorità vaticane. Ma la decisione del Papa, nonostante l'invito della Madonna a divulgarla nel 1960, fu quella di continuare a mantenere il riserbo. La stessa scelta fece Paolo VI, che lesse il testo il 27 marzo del 65, ma restituì ancora una volta la busta al Santo Uffizio. Arriviamo a Giovanni Paolo I, non ebbe però questo Papa l'opportunità di consultare il segreto, essendo morto, come sappiamo, poco più di un mese di pontificato, ma successivamente alla sua morte fecero molto clamore alcune rivelazioni relative all'incontro che lui, allora patriarca di Venezia, cioè Albino Luciani, aveva avuto l'11 luglio del 1977 con Suor Lucia nel Carmelo di Coimbra. In particolare il fratello del Papa, Edoardo, si dichiarò persuaso, dice che Albino, cioè il Papa, sapesse in anticipo che il suo pontificato doveva durare molto poco e anche per questo non concepì programmi a lungo termine. Dice Edoardo, che è il fratello di Papa Giovanni Paolo I, penso che il suo presagio di una morte repentina da Papa fosse legato al lungo colloquio che Albino ebbe con l'unica veggente di Fatima ancora in vita. Mio fratello ne uscì sconvolto. E invece di San Giovanni Paolo II è nota la decisione di fare incastonare nella corona di Nostra Signora di Fatima la pallottola che lo aveva colpito nell'attentato proprio del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro, riconoscendo nell'intercessione della Madonna la propria salvezza. E per ben 3 volte Papa Wojtyła si recò in pellegrinaggio a Fatima, prima nel 1982, poi nel 91 e infine nel 2000, e volle sempre incontrare in privato Suor Lucia. E con lei mantenne una fitta corrispondenza. Anche Papa Benedetto XVI era stato naturalmente coinvolto nella problematica di Fatima quando lui scrisse il commento teologico al terzo segreto, manifestando in questa circostanza il convincimento che gli eventi descritti in quel testo ormai, disse, appartengono al passato, ma di ben diverso tenore fu la sua opinione che espresse da Papa durante il suo pellegrinaggio il 13 maggio del 2010 a Fatima, quando affermò a chiare lettere: si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. E infine Papa Francesco il 13 ottobre del 2013 in piazza San Pietro fece l'atto di affidamento a Maria, Vergine di Fatima, proprio al termine della Santa Messa in occasione della giornata mariana, proprio alla presenza della statua originale della Vergine apparsa a Cova d'Aeria. Ecco, abbiamo visto nell'insieme un po' una sintesi, perché insomma raccontare Fatima ci vuole ben altro tempo, però abbiamo cercato di raccogliere un po' tutto e facciamo anche un accenno a quelle che sono state le cause di beatificazione e di canonizzazione dei pastorelli. La prima è quella dei fratelli Marto, che sono Francisco e Giacinta, che sono stati beatificati il 13 maggio proprio del 2000 da San Giovanni Paolo II e vennero poi canonizzati proprio da Papa Francesco il 13 maggio del 2017, ma vi dico anche il miracolo per la loro canonizzazione, che non è avvenuto in Portogallo ma nella diocesi brasiliana di Campo Mourão nel Paraná, e il 3 marzo del 2013. E questo miracolo riguarda un bambino, si chiama Lucas Maeda de Oliveira, che allora aveva circa 6 anni. Questo bambino si trovava nell'abitazione del nonno e stava giocando con la sorellina quando accidentalmente cadde dalla finestra ad un'altezza di circa 6 metri e mezzo, riportando un gravissimo trauma cranioencefalico con perdita di materia cerebrale. Portato in ospedale, ovviamente in stato di coma, con prognosi ormai di fine vita, fu sottoposto ad intervento chirurgico, anche se era in una struttura sanitaria non adeguata per la cura di queste lesioni così gravi, e dove permase in un quadro di altissima gravità con elevato rischio di morte, oppure di stato vegetativo permanente nel migliore dei casi. Insomma, dopo alcuni giorni invece, cari amici, il bambino è stato dimesso con rapidissima e completa guarigione, senza specifiche terapie, e quindi senza nessun tipo di danno né neurologico né cognitivo. E la guarigione del bimbo è infatti così riassunta nella Positio Super Miracolo, che comprende sia l'inchiesta svolta su questo caso e anche con la documentazione clinica rilasciata. Viene spiegato così: guarigione di Lucas Meda de Oliveira, vittima di una caduta da un'altezza di 6 metri e mezzo, in seguito alla quale ha riportato grave trauma cranioencefalico aperto con perdita di sostanza cerebrale, coma grave e danno assonale diffuso con serio pericolo di morte o di gravi conseguenze. E qui i medici della consulta medica, in data 2 febbraio 2017, avevano espresso tutti parere positivo unanime, cioè 6 voti su 6, riguardo all'inspiegabilità scientifica della guarigione. Al momento dell'incidente, prendendo proprio il bimbo dal marciapiede, il papà, addolorato e spaventato, aveva invocato la Madonna di Fatima, di cui era devoto, e due piccoli beati, quindi Francisco e Giacinta. E quella notte stessa i familiari, insieme a una comunità di suore di clausura carmelitane, avevano pregato con insistenza, con forza, proprio i pastorelli di Fatima, che erano beati. A oggi, pensate, permane lo stato di benessere di questo bambino, che da subito ha ripreso tutte le attività, comprese quella sportiva. Questo riguarda la canonizzazione di Giacinta e di Francesco, mentre invece la causa di beatificazione di Suor Lucia è ancora aperta dal 2008, attualmente Suor Lucia è serva di Dio. Ecco, vorrei dire che la canonizzazione dei due pastorelli di Fatima, quindi di Francisco e di Giacinta, che insieme con Lucia ebbero le apparizioni della Madonna del Rosario ormai 100 anni fa, ha fatto sì che siano diventati i più giovani santi non martiri della storia della Chiesa. Una santità però, cari amici, che non è in diretta correlazione con la visione della Madonna, quanto invece con l'intensa, seppur brevissima esistenza, trascorsa nel desiderio profondo di compiere la volontà di Dio che la Vergine aveva chiesto loro, con la preghiera e il sacrificio. Avevano infatti, abbiamo visto, appena 9 anni Francesco e 7 Giacinta quando ebbero le apparizioni, e morirono rispettivamente solo 2 e 3 anni dopo quell'evento. Pochi anni, sufficienti però a far dichiarare alla Chiesa il pieno possesso delle virtù cristiane in grado eroico, corroborato dal sigillo dei miracoli. E concludo questa trasmissione ricordando la presenza di Papa Francesco, abbiamo visto il 13 maggio 2017, sia per la canonizzazione di Francisco e Giacinta Marto, e anche per la chiusura del centenario delle apparizioni a Fatima. Qui, alcuni mesi dopo maggio, siamo al 30 settembre del 2017, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Marto, il Vescovo di Leiria Fatima, insieme ai suoi fedeli venne ricevuto in Vaticano dal Papa, che anche per un saluto, insomma, erano passati pochi mesi dalla visita del Papa a Fatima, e Monsignor Marto andò e fu ricevuto in Vaticano insieme alla sua comunità. Il Papa volle parlare con loro e disse queste parole, che concludono anche la nostra trasmissione. Disse: cari fratelli, in questo giorno in cui celebrate la chiusura del centenario delle apparizioni della Santissima Vergine di Fatima, voglio inviare la mia benedizione e il mio saluto. Ancora oggi porto nel mio cuore il ricordo del viaggio, le benedizioni che la Vergine ha voluto darmi e dare alla Chiesa in quel giorno. Non abbiate mai paura, Dio è molto più buono di tutte le nostre miserie, Lui ci ama molto. Andate avanti e non allontanatevi mai dalla Madre, come un bambino che insieme alla madre si sente al sicuro, così noi, accanto alla Vergine, ci sentiamo al sicuro. Lei è la nostra sicurezza. E alla fine voglio darvi un consiglio. Non lasciate mai il rosario, non abbandonate mai il rosario. Recitate il rosario come ha chiesto lei stessa, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e pregate anche per me. Grazie.